È la sana incosciente che da Desolandia dilaga le province. Si teme un contagio di potere globale, dati casi registrati in Puglia e in Sicilia, nonché in Veneto e Piemonte. Notizie catastrofiche dall'isola di Creta, dal Cairo e persino dalla tecnologica Germania. E un'ansia di qualche ora fa annuncia l'allarme dalla Bolivia. Si teme il peggio, il caso emblematico resta Ferrara, dove alieni sono apparsi su tutti i muri e la cittadinanza si domanda se tutto ciò non sia l'ennesimo scherzo di Franceschini. È tutto da poco, saluti! Mondo pigro sta zero, disloco testa e gesto per questo leggero. L'una corre libera e pesta, Bud Spencer. L'altro inseguimento tipo barra nel sequencer. Di follia dispenser, dispestile birretta. Casa al centro e una linea retta. Il fatto è che ogni regola mi sta un po' stretta, per questo la cavalco come pianca in piazzetta. Motivato King Kong, preciso precision. T'appoggio reverse, evito ogni collision. È adrenalina che converte in frastuono quando sto giù coi miei in stile curva bar d'uomo.